Sapevate che l'Accademia Filarmonica di Bologna è stata una delle più prestigiose del mondo? Così prestigiosa da attrarre uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, l'enfant prodige per eccellenza, Wolfgang Amadeus Mozart, allora appena 14enne, per il conseguimento dell'ambito diploma di maestro compositore. Ma andiamo con ordine, a partire dalla fondazione dell'Accademia, nata nel 1666 per volontà di Vincenzo Maria Carrati, che aveva l'intenzione di aggregare musicisti a ciò avere filo e tunione da non disunirsi e rendere buon suono. Sede stabile è sempre stata l'elegante palazzo della famiglia Carrati, al civico 14 dell'attuale via Guerrazzi. L'Accademia si affermò fin dai suoi albori come uno dei principali punti di riferimento della vita culturale bolognese, ma il suo prestigio crebbe esponenzialmente nella seconda metà del Settecento, quando divenne una delle istituzioni più elevate della cultura musicale europea sotto la guida di padre Giovanni Battista Martini, grande maestro bolognese di contrappunto. In questo periodo si moltiplicano gli aspiranti al grado di maestro compositore, il diploma che l'Accademia Bolognese era autorizzata a rilasciare, al pari della romana Accademia di Santa Cecilia. Ed è proprio alla guida di padre Martini che si affidò il giovane Mozart nell'estate del 1770 per ottenere l'ambito titolo. Una curiosità. Il nome Amadeus non fu mai usato nella famiglia Mozart, se non per scherzo. Il vero nome del compositore era Johann Wolfgang Theophilus Mozart. Theophilus in latino significa amico di Dio, da qui il soprannome Amadè, poi latinizzato nel nome con cui è passato alla storia, Amadeus. Tra il 20 luglio e il 18 ottobre di quell'anno, Mozart e il padre Leopold furono ospiti del conte Gianluca Pallavicini. È qui che Amadeus prese lezioni di contrappunto da padre Martini, in preparazione all'esame per entrare a far parte della prestigiosissima Accademia Filarmonica di Bologna. Il rapporto tra il giovane Mozart e il maestro bolognese fu così stretto e gli insegnamenti così proficui che qualche anno dopo il compositore scrisse in una lettera a padre Martini: «Reverisco devotamente tutti i signori filarmonici. Mi raccomando sia sempre nelle grazie di lei e non cesso d'affliggermi nel vedermi lontano dalla persona del mondo che maggiormente amo, venero e stimo e di cui inviolabilmente mi protesto di vostra paternità molto reverenda, umilissimo e devotissimo servitore». Il 9 ottobre, come da prassi, Mozart venne chiuso in una sala di Palazzo Carrati per comporre, in assoluta solitudine, un'antifona di canto gregoriano che rispettasse le rigidissime regole di Giovanni Pierluigi da Palestrina, il massimo musicista italiano del Cinquecento, autore di una massiccia revisione dei canoni della musica liturgica. E qui arriva il colpo di scena. La composizione di Mozart, agli occhi di padre Martini, risultò insufficiente. Possibile che uno dei più grandi geni di tutti i tempi avesse commesso degli errori? Oggi potremmo dire che l'approccio di Mozart era forse troppo moderno, ma il problema rimaneva. Con ogni probabilità non sarebbe riuscito a superare l'esame. Così, per rimediare, pare che padre Martini abbia apportato delle opportune correzioni prima di sottoporre la composizione al giudizio dell'Accademia. Questo è testimoniato dalla presenza di due differenti compiti, entrambi autografati da Mozart, oggi conservati al Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna, uno dei quali, appunto, è scorretto, secondo i canoni codificati da Giovanni Pierluigi da Palestrina, si intende. Il finale è lieto. Mozart venne ammesso all'Accademia e iniziò il suo percorso nello stardom musicale dell'epoca con il titolo di maestro compositore. Il resto è storia. Una nota in calce. La visita al Bolognese Museo della Musica è vivamente consigliata, sia per la ricchezza dei contenuti che propone, tra i quali strumenti musicali medievali, spartiti quattrocenteschi, ritratti di celebri compositori, sia per la splendida cornice. La sede è Palazzo Sanguinetti, strada maggiore numero 34, uno dei più significativi edifici che testimoniano il periodo napoleonico bolognese, con pareti decorate da magnifici affreschi in stile neoclassico realizzati tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Al suo interno, oltre alle due versioni del compito di Mozart, è possibile ammirare il suo celebre ritratto, dipinto nel 1777 da uno sconosciuto artista viennese, a detta del padre Leopold, rassomigliantissimo. Tra i proprietari che si sono succeduti a Palazzo Sanguinetti, costruito nel XVI secolo dalla famiglia Loiani, citiamo il conte Aldini e il tenore Domenico Donzelli, mentre tra i suoi celebri ospiti ricordiamo Gioacchino Rossini prima che la ristrutturazione della sua casa fosse terminata. Anche Rossini, naturalmente, fu membro dell'Accademia Filarmonica di Bologna insieme a Verdi, Wagner, Liszt, Puccini, Brahms e altri grandi artisti del panorama musicale europeo. A Mozart è dedicata una sala del Palazzo Carrati e allo stesso compositore è intitolata l'Orchestra Mozart, una delle più significative compagini del panorama internazionale, guidata da Claudio Abbado e orientata alla promozione della musica contemporanea e alla formazione dei giovani musicisti. Uno studium al femminile.